Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio in regia la parte tecnica Pietro Alla Corte e in redazione come sempre Laura Vanossi. Partiamo. Fegato, un lavoratore instancabile che va comunque tutelato. Dal dentista a ritmo di musica, mani in primo piano, i consigli della nostra dermatologa. Parliamo di fegato, di quest'organo meraviglioso che svolge funzioni complesse. Qualcuno l'ha definito e paragonato ad un laboratorio chimico, un paragone che calza a pennello, dato che il suo compito fondamentale è quello di drenare il sangue che proviene dall'intestino, catturarne tutte le sostanze nutritive e trasformarle per distribuirle agli altri organi. Ma il suo lavoro non finisce qui, infatti il fegato svolge anche una funzione di spazzino, direi. Infatti elimina le sostanze dannose tossiche che introduciamo nel nostro organismo. E forse per questa ragione Madre Natura l'ha attrezzata a dovere. Continua infatti il fegato a funzionare anche quando è in grande difficoltà e sa rigenerarsi, un po' come succede alla coda delle lucertole. È una caratteristica unica che nessun altro organo possiede. Insomma, direi che se fosse una persona diremmo che è un tipo davvero tosto, ma anche i migliori hanno i loro punti deboli, qualcosa che li mette in crisi, in difficoltà. Meglio saperlo è quello che faremo oggi in compagnia del nostro ospite, che è già in linea con noi, il dottor Stefano Fagioli. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti. Direttore di gastroenterologia all'ospedale Riuniti di Bergamo. Dottore, allora, il fegato, un organo meraviglioso, unico, nel vero senso della parola. Senz'altro, è centrale in tutte le attività del corpo umano. C'è un esempio abbastanza interessante per capire bene i lati positivi e negativi del fegato. Se noi asportassimo circa il 70% di fegato ad una persona sana, di fatto questa persona non subisce delle conseguenze e le funzioni del suo fegato restano sostanzialmente inalterate, e nell'arco di poco tempo, un paio di mesi circa, il fegato è rigenerato sostanzialmente alle condizioni precedenti. Sì. Ma se invece di 70% ne portiamo via il 78-80%, quindi veramente molto poco di più, e la persona non è in grado di sopportare l'intervento e può morirne a seguito di questa procedura. Questo ci dà un'informazione che è cruciale, che molti in realtà hanno sperimentato sulla propria pelle, cioè che è un organo che è in grado di subire e di sopportare un gran numero di danni e di lesioni senza dare segno di sé, ma quando comincia ad avere dei cedimenti, la finestra, il tempo utile per provvedere e rimediare alla cosa è veramente molto piccolo, e questo spiega perché molte persone possono aver passato moltissimi anni senza di fatto aver avuto nessun segno di malattia e ritrovarsi magari con una malattia più importante di quello che potevano immaginare. Dottore, mi sembra che questo esempio sia perfetto. Oggi noi cerchiamo di capire un po' i punti deboli allora del nostro fegato. Credo sia importante conoscerli perché su alcuni di questi abbiamo un ampio margine di azione. Possiamo, come si dice, fare un po' la differenza, dottore. Certo, ovviamente ognuno ha già dei nemici, il fegato ne ha alcuni che in particolare sono piuttosto adatti a creargli dei problemi. In primo luogo ricordiamo degli agenti esterni, dei virus, i quali possono dare un danno sia acuto ma in particolare cronico, e che è quello che preoccupa molto di più, perché vuol dire che si protrae nel corso della vita, e gli imputati maggiori per questo danno cronico al fegato sono il virus B e il virus C dell'epatite. Sì. E chiaramente questi possono portare ad un'insufficienza dell'organo a lungo andare. L'alcol lo conosciamo tutti, un abuso di alcol è sicuramente in grado di deteriorare la struttura del fegato e conseguentemente la sua funzione. Poi ci sono dei tossici ambientali, tipo i solventi, tipo le sostanze che vengono usate in ambito chimico, agricolo, o i farmaci stessi, che sono tutte sostanze che possono causare dei danni al fegato per il semplice motivo che è il fegato che si occupa di smaltirle una volta che sono nell'organismo. E poi ci sono delle condizioni congenite, ci sono una miriade di malattie, praticamente una per ogni piccola funzione che svolge il fegato, e quindi chiaramente coprono tutto lo spettro di attività dell'organo. Poi ci possiamo mettere del nostro, anche noi, un po' nella predisposizione che noi abbiamo, ma certamente nel contesto di quella che chiamiamo sindrome metabolica, e cioè un quadro caratterizzato da sovrappeso, obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete o familiarità per queste condizioni, si sviluppa un primo danno al fegato che è deposito di grasso, quindi steatosi, ma che può progredire a sua volta e dare un danno cronico. Quindi diciamo che molti nemici, molto onore, il fegato sicuramente ha molto onore da questo punto di vista. Dottore, sì, ha molto onore, ma un suo, direi, pregio, ma anche un suo limite per noi è il fatto che il fegato non si lamenta se non quando la situazione è davvero insostenibile. E allora noi come facciamo a sapere se soffre? A parte gli esami del sangue di cui parleremo, ci sono altri indicatori, campanelli d'allarme? Allora, dal punto di vista pratico, fino a che la malattia non è avanzata, per spiegarci in termini di cirrosi, che non è altro che la sostituzione con cicatrici ripetute e ricorrenti, per cui la parte nobile del fegato, quella che lavora, diventa sempre percentualmente minore rispetto a una parte che invece è inattiva dal punto di vista funzionale, fino a quel punto in realtà non c'è un quadro di sintomi o di segni che possono far pensare chiaramente ad una malattia di fegato, a meno di quei rari eventi eclatanti delle epatiti acute di qualunque causa siano. Per cui, per poter identificare i soggetti che possono avere una malattia di fegato anche iniziale, in realtà bisogna partire dall'inquadrarli in un possibile gruppo a rischio. Allora è chiaro che chi ha avuto nella sua vita un rischio di elevato contatto con malattie infettive come l'epatite B o l'epatite C, chi ha abusato di alcol, chi è in evidente sovrappeso, chi ha una storia di diabete o chi ha una familiarità per queste patologie, è chiaro che è il candidato ideale quantomeno per andare a vedere se il suo fegato non stia cominciando a soffrire con degli esami. Diverso è quando invece c'è già una cirrosi. Allora a quel punto qualche segno iniziale può mostrarsi, ci sono dei segni cutanei, delle macchie rosse sulla pelle a forma di ragno, si chiamano spider nevi per questo, può esserci un rossore al palmo delle mani e possono cominciare alcune alterazioni un po' più evidenti, ma in realtà è quando la malattia si scompensa che poi dà segno di sé, ma come diceva lei bene, alla fine in quel momento la malattia è già arrivata ad una fase importante. E quindi, ancora una volta, bisogna identificare i soggetti a rischio, che sono gli stessi della categoria delle epatiti croniche, ma se c'è una categoria che va studiata e seguita in maniera assolutamente corretta è chi sa già di avere un'epatite cronica e deve essere inserito in un programma di controlli regolari. Tra poco parleremo degli esami che aiutano a fare diagnosi. 800 24 0024 se volete informazioni, se avete fatto degli esami, se avete qualche piccolo disturbo, se rientrate in una delle categorie che il dottor Fagioli ha menzionato, quindi anche solo se siete in sovrappeso, chiamateci oppure scriveteci al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso c'è uno studio interessante di cui voglio parlarvi, che sottolinea ancora una volta il potere benefico della musica. Le ricerche in fondo dimostrano quello che l'uomo sa dalla notte dei tempi per esperienza diretta, cioè che la musica regala benessere. Ma oggi, grazie a indagini sempre più sofisticate, si possono certificare le modificazioni fisiologiche indotte dall'ascolto musicale. Tornando alla ricerca di cui vi parlavo, sembra che tra le tante virtù terapeutiche le note abbiano anche quella di rendere più piacevole, se così possiamo dire, la seduta dal dentista, per grandi e per piccini. In linea con noi, come sempre quando parliamo di musica, c'è la dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta in musicoterapia. Dottoressa Sibillo, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, andiamo dal dentista a suon di musica? Ma direi proprio di sì, ce lo dicono i ricercatori dell'Università di Israele, uno studio molto interessante pubblicato pochi mesi fa sul prestigioso giornale che riguarda gli studi di pediatria. Il dottor Shapiro, scusate, i suoi suoi colleghi hanno osservato 35 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e 16 dei quali purtroppo avevano anche dei disturbi comportamentali. Hanno voluto misurare i livelli di ansia, di agitazione di questi bambini durante due diverse sedute per un controllo che si fa di routine dal dentista, monitorando l'attività dermoelettrica di questi bambini, quindi una misurazione assolutamente oggettiva, esatto. Quindi la prima visita comprendeva le classiche esperienze sensoriali che si fanno in uno studio dentistico, cioè per esempio la presenza delle lampade fluorescenti e l'utilizzo da parte del dentista, avete presente quella lucetta che vi punta direttamente sulla fronte e che il dentista mette sopra la sua testa. Mentre durante la seconda visita i ricercatori hanno creato una situazione ambientale completamente nuova, volta a modificare l'esperienza che questi bambini potevano vivere, quindi non hanno più usato quella luce puntata sopra la testa, ma ne è stata utilizzata per esempio una speciale diretta all'interno della bocca del bambino, è stata aggiunta una luce colorata, ma soprattutto i bambini erano sottoposti all'ascolto di una musica di sottofondo molto dolce, addirittura venivano poi avvolti in dei bei maglioni in modo da creare una sorta di effetto abbraccio, chiamiamo così, e la stessa poltrona era usata per la visita, produceva una leggera vibrazione rilassante. Allora, i risultati quali sono stati? Che i livelli di ansia, di preoccupazione, di agitazione nella seconda seduta si riducevano notevolmente, passando dai 4 minuti, così era stato valutato il livello di ansia, a meno di un minuto e mezzo, ma gli stessi livelli si riducevano anche significativamente in quei bambini con purtroppo disturbi comportamentali, passando da 24 minuti a meno di 9 minuti. Quindi questo è sicuramente una valida alternativa all'utilizzo dei sedativi e di tutte quelle pratiche che a volte sono un pochettino invasive, appunto, e in particolar modo nello studio del dentista. Dottoressa Sibillo, però ci sono anche delle ricerche che riguardano gli adulti e la loro paura ad accomodarsi sulla poltrona del dentista. La musica in qualche modo può aiutarci ad affrontare questo incontro con maggiore serenità? Sicuramente, vi dico anche di più che già molti studi odontoiatrici utilizzano e consigliano l'ascolto della musica in cuffia durante un intervento sui propri denti, ma del resto i suoni che si riverberano nella mascella e in tutte le altre ossa che fanno parte del nostro viso, che vengono create dalle vibrazioni degli strumenti odontoiatrici, portano un grande disordine, aumentando i livelli di ansia e di stress. Cosa succede? Si ha la liberazione dei cosiddetti ormoni dello stress, quindi la musica va attraverso la liberazione di quelle magnifiche endorfine da parte delle nostre ghiandole poste a livello cerebrale, queste endorfine si diffondono per effetto dell'attività elettrica nel nostro cervello mentre noi ascoltiamo la nostra musica preferita e inevitabilmente diminuirà la produzione di ormoni dello stress e diminuirà il nostro senso di agitazione. Quindi sentiremo i cosiddetti brividi, non saranno per la paura che stiamo per affrontare sulla poltrona del dentista, ma saranno dati semplicemente dalla musica che noi andiamo ad ascoltare. Dottoressa Sibillo, vogliamo passare allora dalla teoria alla pratica? Ma sì, vorrei consigliarvi qualche musica e qui una piccola curiosità. Dunque, per i bambini, dice, che musica gli facciamo ascoltare? Vabbè, da quando hanno scoperto i francesi che un bambino si addormenta prima e velocemente con la musica rap o hip hop, consigliargli una ninna nanna mi sembra assolutamente fuori luogo. bisogna esatto. Stare al passo coi tempi e con le ricerche. Esattamente, quindi praticamente lasciamo che siano loro stessi a scegliere la musica che più amano, anche perché non è detto che la musica, quella sicura, sia quella necessariamente romantica, classica, è una musica che deve offrire una sorta di rifugio a chi l'ascolta, quindi le nuove generazioni si consolano tra virgolette con la musica hip hop, mentre per gli adulti possiamo consigliare sicuramente della musica jazz, della musica new age, anche della musica che riprende i suoni della natura in modo tale da creare una perfetta sintonia tra quello che è il nostro interiore e quello che è il mondo che ci circonda. E un'altra piccola curiosità, infine, un suggerimento: se mentre siete dal dentista in sala d'attesa vi sembra che i minuti stiano diventando ore, che il tempo non passi mai, allora il consiglio è una musica veloce, dal ritmo vivace, in modo tale che vi darà l'illusione che il tempo passi molto più in fretta. Grazie dottoressa Sibillo, seguiremo i suoi consigli, buona musica e buona giornata. Grazie anche a tutti voi. Pronto soccorso. fegato, torniamo a parlare di lui, di questo organo unico, è il caso di dirlo per numero e importanza. Insieme a noi il dottor Fagioli. Dottore, eravamo rimasti agli esami da fare utili per capire se il nostro fegato è in forma, dato che abbiamo visto che si lamenta quando è tardi, in fondo. Senz'altro. Sarebbe bello, peraltro, riuscire a trovare la musica ideale per far star meglio anche il fegato. È una cosa alla quale bisognerà pensare. Vedrà che la troveranno. La troveremo. E ne parleranno. Allora, dividiamoli in due grandi categorie. Gli esami del sangue, come li chiamiamo tutti, invece degli esami strumentali. Quando si parla di esami del sangue relativi al fegato, anche in questo caso bisogna considerare almeno due tipologie di esami. Uno sono quegli indici che noi definiamo di citolisi, cioè ci dicono quanto soffre il fegato, e sono le transaminasi. La spiegazione del perché si alzano, si muovono, è che quando si rompe la cellula epatica, le transaminasi non sono altro che degli enzimi contenuti nella cellula. La cellula si rompe e questi vengono liberati nel sangue, quindi è, anche se in maniera grossolana, un indicatore di quanto danno c'è in corso nel fegato. Viceversa, ci sono degli indici che noi chiamiamo di funzionalità, che non ci dicono qual è il danno in corso al momento, ma ci dicono qual è il deficit di funzione. E allora, dal momento che il fegato si occupa di produrre le proteine, ecco che l'albumina diventa importante, le proteine della coagulazione, ecco che l'INR, OPT, il tempo di coagulazione, diventa importante, la bilirubina è un sistema di smaltimento e detossificazione, o l'ammoniemia, anche quello è un esame che ci dice quanto detossifica il fegato. Per cui ogni volta che noi dobbiamo studiare un problema, dobbiamo sapere che dobbiamo verificare qual è il danno in atto e quali sono i deficit della funzione, e c'è un pannello di esami del sangue che questo lo può fare, ovviamente. Dal punto di vista strumentale, la base di tutto, dopo la clinica, perché non dobbiamo dimenticarci che con i pazienti si deve parlare e bisogna visitarli, e questo non dovremmo dimenticarlo mai. Poi, quando dobbiamo passare a un esame, quello che viene definito di primo livello, il più semplice e che ci dà più informazioni, è l'ecografia. Sì. Ci dà informazioni sulla struttura del fegato, sui suoi profili, sulla sua densità, sulla struttura vascolare, sulle vie biliari, ci dà molte informazioni, e da quello poi si può procedere con indagini più approfondite a seconda del distretto che si vuole esplorare. A proposito di ecografia, Luciano da Parma ci scrive: l'ecografia dice che il mio fegato è ingrossato, ma gli esami del sangue sono a posto. Allora, cosa devo pensare? Ma quello che chiederei al signor Luciano è di analizzare bene assieme i possibili fattori che possono condizionare una steatosi, e quindi il peso corporeo, l'assetto lipidico, la presenza di eventuali malattie da accumulo, che non sono così rare come si pensi. Una persona su 200-400 in Italia ha una piccola alterazione del gene che controlla l'assorbimento del ferro, per dire, per cui anche questo ha il suo significato. E a quel punto cercare di capire bene qual è la motivazione, qual è la possibile causa per affrontarla e rimuoverla. Il fatto che ci sia un po' di steatosi e non ci sia un danno in termini di alterazioni degli esami ci dice che il quadro è molto ragionevolmente reversibile, togliendo ovviamente il motivo che l'ha causato. Andiamo nella provincia di Modena. Ci chiama Adelchi. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Ok, io segnalavo che da 15 anni nei miei normalissimi esami del sangue fatti per routine ho sempre la transaminasi GPT fuori norma. Sì. È vero che sono sovrappeso e che ho anche una lieve ipertensione misurata con lo strumento, senza alcuna terapia antipertensiva. Sì. Quindi sono anche un buon gustaio. Sì. Mi chiedevo se tutto questo sia sufficiente a spiegare il fatto che la GPT 9 volte su 10 è fuori norma, oppure se ci può essere un valore soggettivo che è già un po' più altino della norma. Grazie. Esatto. Grazie Adelchi, mi è piaciuta perché lei ha detto: è vero che sono un po' sovrappeso, quasi con un po' di senso di colpa, ma ha detto: sono un buon gustaio. D'altronde, dottor Fagioli, al fegato proprio le limitazioni, il fegato è un organo a cui piace la moderazione. Come tutti dovrebbe essere. essere, poi non riusciamo a seguirla. Non le mortificazioni. No, certo. Adelchi ci riferisce questo dato, questo valore, questo sempre un po' ballerino, più alto. Che cosa può essere? Ed è un valore importante. Quando si parla di fegato, anche per noi che non siamo addetti ai lavori, ci vengono in mente subito le transaminasi. Sì, io credo che c'è una cosa importante da ricordare. È vero che tutti quelli che sono i limiti di normalità dei nostri esami sono qualcosa di deciso in maniera quasi arbitraria, nel senso che si prende la media di tutte le persone sane e si vede dentro quali valori restano. E noi sappiamo che c'è una piccola quota o nella parte alta o nella parte bassa che, pur essendo assolutamente normale, esce da questi limiti. Però questo lo possiamo raggiungere per esclusione, dopo che abbiamo eliminato tutte le possibili cause. Sì. E l'aspetto importante è che quando un dato si conferma alterato per più di 6 mesi, come le transaminasi, noi siamo autorizzati, anzi dobbiamo pensare che ci sia un problema cronico. A quel punto si tratta di capire se il problema è sostenuto semplicemente da un sovrappeso, da quella che abbiamo descritto prima come sindrome metabolica, o se ci sono altri fattori. E allora è chiaro che bisogna escludere che non ci sia un'infezione virale cronica da virus B o da virus C, che non ci sia un consumo di alcol inadeguato, che non ci sia un utilizzo di farmaci inadeguato. Una volta valutati tutti questi aspetti, si può intervenire correggendo quello che sembra l'aspetto più importante. Però il messaggio fondamentale è: se c'è un esame alterato e si conferma costantemente alterato, anche se lo è di poco, è fondamentale continuare a investigare e cercare di capire qual è il problema, che non necessariamente è attuale, ma proprio per le caratteristiche che abbiamo descritto del fegato potrebbe diventare attuale nel giro di 10 anni, 15 anni, 20 anni, quindi mai come in questo caso la prevenzione e l'attenzione sono una cosa importante. Allora, noi continueremo a parlarne, arrivano tantissimi messaggi e cercheremo di rispondere a tutti voi. Adesso abbiamo detto che il fegato, se fosse una persona, sarebbe un gran lavoratore, anche un tipo tosto, amante di una vita regolare ma non insipida. Insomma, gli stravizi, lo sappiamo, non gli piacciono, ma neppure le mortificazioni gli tornano utili. Spesso quando, dottor Fagioli, noi abbiamo il medico ci dice che abbiamo il fegato un po' ingrossato, ci mettiamo a dieta in bianco. Eccoci, siamo tornati insieme, abbiamo detto che al fegato piace la varietà e la misura anche a tavola. Ne parliamo oggi con il dottor Fagioli, che starà con noi tutta l'ora, e ci ha raggiunto anche il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista e specialista in igiene e medicina preventiva. Dottor Temporin, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Dottor Temporin, le ho tenuto da parte un sms che può aiutarla ad andare proprio dentro al problema. Ho la steatosi, mi è stata diagnosticata la steatosi, ci scrive Sasha da Milano. Ho diminuito, quasi eliminato l'assunzione di alcol e ridotto la carne. La steatosi può guarire? E ci sono dei consigli di dieta? Dottor Temporin. Sì, allora, diciamo che la steatosi epatica, quindi il fegato ingrassato, per migliorare necessita di un abbassamento da un punto di vista alimentare della concentrazione di quei grassi saturi che noi possiamo trovare anche nella carne. Sì. Ovviamente devono essere sostituiti e integrati con proteine più assimilabili, quindi della carne magra o eventualmente del pesce. Certo. Per quanto riguarda invece le persone che riducono la loro dieta e quindi mangiano in bianco, adesso un po' la posizione dei medici è assolutamente molto lontana da quella di una volta, quando il medico diceva: signora, il fegato un po' ingrossato, mangi in bianco. Adesso si è visto che non serve più mangiare in bianco, vero dottor Temporin? Sono assolutamente d'accordo con lei Nicoletta, mangiare in bianco serve ben poco. È importante invece mangiare qualitativamente in modo variato, cercando di preferire alcuni alimenti che sono molto assimilabili per il fegato e di conseguenza riescono ad affaticare meno il nostro organo. Per esempio cibi quali cibi ricchi di fibre, poi proteine molto ben assimilabili come quelle del pesce, quelle dei formaggi magri, sono sicuramente da preferire a cibi più grassi. E ci sono degli alimenti che piacciono di più al nostro fegato, che vantano delle proprietà, tra virgolette, protettive? Allora, ci sono due alimenti in natura che sono eccezionali per il fegato. Uno sicuramente è il carciofo, che è molto conosciuto da tutti ed è un eccezionale epatoprotettivo, in quanto contiene la cinarina, che è un amaro tonico, che ha delle funzioni di tipo coleretico, quindi stimola la produzione della bile, e colagogo, e aiuta la bile ad essere espulsa, quindi per assimilare al meglio i grassi. Altro alimento importantissimo che adesso cominciamo a vedere con la primavera anche nei nostri campi, in quanto è un alimento spontaneo, è il tarassaco, che è una cicoria selvatica, la quale al suo interno contiene un fitosterolo che quindi aiuta tantissimo ad abbassare il colesterolo, quindi utilissimo anche per le persone che soffrono di dislipidemia, è sempre colagogo e coleretico, è un vero e proprio depurativo epatico. Dottor Temporin, grazie, mi piace perché non ci ha messo a dieta, buona giornata. Arrivederci Nicoletta. E allora non dobbiamo fare grandi sacrifici, possiamo sederci a tavola contenti, alzarci soddisfatti, magari per bere un buon caffè, o sbaglio? Ma ci fate un bello caffè, eh? Il caffè. Vabbè signor, datemela a me, va, grazie. Toni, ne vuoi un po'? Per carità, è veleno, tengo tutto il fegato spappolato, non lo posso pigliare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Francesco Visioli, professore ordinario di fisiologia presso l'Université Pierre Marie Curie di Parigi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Professore, allora, questo caffè, che lei, non lo, essendo a Parigi, forse avrà qualche nostalgia del nostro buon espresso italiano. Noi ce lo possiamo prendere? Al fegato piace? Oppure, come abbiamo sentito dal breve estratto del film, non possiamo utilizzarlo, non possiamo sorseggiarlo? No, il film è probabilmente divertente, bello da vedere, però non diamo retta a quanto abbiamo appena ascoltato. Se qualcuno ha problemi al fegato deve rivolgersi a un bravo epatologo, il dottor Fagioli e tanti altri epatologi che ci sono in Italia. Ma il caffè al fegato o non fa niente o fa addirittura bene, come sembra che suggeriscano alcuni studi recenti. Bene, quindi noi possiamo... Che cosa ci dicono questi studi, professore? Ne abbiamo un po' parlato, gli ascoltatori più attenti si ricorderanno qualche puntata fa, ci sono degli studi che suggeriscono che chi beve caffè ha una minor probabilità di ammalarsi di tumore al fegato e di diabete di tipo 2. Bisogna vedere se effettivamente il caffè è responsabile di questi effetti o se sono studi con qualche difetto di cui al giorno d'oggi non riusciamo ad accorgerci. Però una cosa che gli ascoltatori devono sapere è che il caffè contiene delle sostanze che il fegato filtra praticamente, e durante questo filtraggio queste sostanze attivano gli enzimi, quindi le proteine che depurano le cellule, che detossicano, è un po' più esatto dire detossificano le cellule. Ci sono gli enzimi che praticamente eliminano le tossine dalle nostre cellule, e questi enzimi, quindi queste proteine, vengono attivate dalle sostanze che il caffè contiene. Quindi beviamo pure caffè tranquillamente, chi lo sopporta può berne di più, chi invece ha problemi con la caffeina può usare quello decaffeinato, ma il caffè per il nostro fegato, senza esagerare, non dobbiamo buttarci a bere litri di caffè pensando che ci prevenga tutti i possibili problemi, ma il caffè per il nostro fegato è probabilmente un alleato. Grazie professor Visioli, allora buon caffè e buona giornata. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Dottor Fagioli, abbiamo tanti messaggi, tra poco con lei parleremo dell'epatiti, ma prima ho in linea con noi Giuseppa che ci chiama da Monza. Buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Lei lo beve il caffè, Giuseppa? È possibile dopo pranzo, ma non sono amante del caffè. Bene, ci racconti di lei. Sì, buongiorno. Io proprio qualche giorno fa ho fatto un'ecografia all'addome e ho scoperto di avere delle cisti. Sì. Queste cisti che sono varie, di dimensioni anche, che vanno da 1,5 cm, però anche la più voluminosa di 5 cm. Ora, come mi devo comportare? Sembra che siano, qui si legge che il contenuto appare limpido, eccetera. Sono sinceramente preoccupata. La sento un po' dalla voce, ma credo che il dottor Fagioli la metterà tranquilla. Dottor Fagioli, sbaglio? No, non sbagli. Allora, intanto la prima informazione era la prima ecografia o aveva fatto altri esami nella sua vita? È la prima ecografia che ho fatto, non sapevo di... Allora, sicuramente un altro controllo glielo faranno fare, però per usare un paragone quasi alimentare, diciamo che il suo fegato assomiglia un pochino al formaggio coi buchi, all'emmental, è nato così e così se lo terrà. Quelle cisti, che sono dalla descrizione delle cisti semplici, sono delle piccole malformazioni congenite che non avranno e non hanno nessun significato nella funzione, nella struttura del suo organo. Essendo la prima volta che vengono identificate, è ragionevole verificare che rimangano sostanzialmente immodificate o si modifichino molto lentamente, cosa che possono fare nel corso degli anni. Ma ripeto, la conferma che sono cisti le darà la tranquillità di sapere che l'unico vero problema è che qualche contatto con i medici lo dovrà avere, e questo è l'unico vero fastidio che avrà, insomma. Dottor Fagioli, Giuseppe ci chiama da Mantova, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda era semplice, insomma, siccome sono in evidente sovrappeso, il mio dottore mi prescrive ogni anno degli esami da fare per le transaminasi, perché sì, a volte risultano alte. Sì. Come risultato, la settimana scorsa avevo 80 punti in più del valore massimo consentito. Però dopo mi metto a dieta, con tanto sacrificio, devo dire, e dopo ripeto gli esami e si mettono a posto, diciamo, questi valori qui. E volevo sapere da cosa dipende. E certo. Dottor Fagioli, con la dieta le transaminasi ritornano a posto? Certo, si è già dato la risposta. Lei potenzialmente è il miglior medico di se stesso, ma anche il suo peggior nemico, nel senso che lei ha capito che con un regime alimentare equilibrato, come ci hanno appena descritto, il suo fegato probabilmente non soffrirà mai delle vere conseguenze. Però questo effetto ping pong di fare un po' di dieta e poi di ritornare su e poi di rifarla certamente non è un bene neanche per il fegato alla lunga. L'aspetto importante è che non bisogna pensare alla dieta come un aspetto punitivo. Bisogna pensare che la sua costituzione, il suo stato con cui è venuto al mondo è tale per cui lei ha necessità di fare una dieta equilibrata per tenere da conto nel modo migliore il corpo che le è stato dato, quindi non la deve considerare come una cosa temporanea o punitiva, ma semplicemente come uno stile di vita, abituale di vita. Dottor Fagioli, tra poco parleremo di epatite, prima delle informazioni sul traffico, rapidamente riusciamo a dire come si trasmette l'infezione? Allora, abbiamo detto che parliamo fondamentalmente dei due virus che ci preoccupano, nel senso che avendo la capacità di rimanere cronicamente espongono per lungo tempo la persona sia al loro effetto ma anche alla possibilità di trasmetterlo, e sono il virus C ed il virus B. Dell'epatite. Fondamentalmente la via di trasmissione preferenziale è il contatto con del sangue infetto. Allora è chiaro che negli anni passati le trasfusioni o chi era in emodialisi o chi subiva interventi chirurgici o ospedalizzazioni o negli anni in cui le siringhe per le iniezioni, per le punture non erano a perdere, non erano a monouso ma venivano riciclate, sono stati chiaramente dei serbatoi di infezione. Credo che nessuno di coloro che hanno più di 40 anni non abbia fatto delle iniezioni con qualcuno che poi le faceva bollire in un pentolino per disinfettarle. Purtroppo questo non era sufficiente ad eliminare il virus. Quindi quelle sono le vie di trasmissione storiche. Al giorno d'oggi per entrambi questi virus bisogna porre attenzione agli strumenti taglienti, ai rasoi, alle lamette, alle forbicine, agli oggetti per la cura personale che devono rimanere personali. Per l'aspetto di trasmissione sessuale è vero per il virus B che bisogna assolutamente proteggersi o proteggere il partner con il profilattico, perché la via di trasmissione sessuale al momento attuale per il virus B è probabilmente la più frequente e la più importante in Italia e nel mondo occidentale. Per il virus C questo non è vero, con una distinzione, nel senso che non sono richieste precauzioni particolari per le coppie monogame stabili. E sottolineiamo monogame stabili. Siamo tornati, ci occupiamo di fegato, in particolare di due virus, il virus B e il virus C, che portano delle infezioni che possono cronicizzarsi. In particolare parliamo dell'epatite B e dell'epatite C. In nostra compagnia è in linea il dottor Stefano Fagioli e Isidoro, che ci chiama da Brescia. Isidoro, buongiorno. Sì, buongiorno. La sento lontanissima, Isidoro. Buongiorno. Si avvicini. Allora, complimenti scontati e vi ringrazio in anticipo per le risposte che mi darete. Niente, io ho una quindicina d'anni che ho questa epatite B asintomatica, sì. Non ho nessun problema, solo che sono un po' in sovrappeso e, come dicevo anche alla signorina, volevo capire se è sufficiente fare gli esami di sangue una volta l'anno, l'ecografia ogni due, e se bisogna astenersi totalmente da quel mezzo bicchiere di vino mangiando. Dico un'ultima cosa, se riuscite, sì. Mia moglie si è vaccinata per tempo 15 anni fa, dura una vita il vaccino oppure bisogna rinnovarlo? Che belle domande, Isidoro, grazie. Il dottor Fagioli va a nozze. Dottore? Pronti, allora, diciamo questo, la cosa fondamentale per il suo futuro è di farle ogni 6 mesi le ecografie e non a tempi più lunghi, questo perché nonostante la malattia possa non essere aggressiva o addirittura possa essere silente, il fatto di avere il virus nel fegato comunque impone di controllare periodicamente che non ci siano delle degenerazioni nel parenchima. Quindi il consiglio è di fare l'ecografia ogni 6 mesi. Sì. E questo è assoluto. Per quanto riguarda i possibili danni collaterali, chiamiamoli così, è chiaro che tutto quello che va ad aggiungersi ad un danno che noi sappiamo esistere, cioè potenzialmente il virus, non fa altro che peggiorare le cose. E giusto per capirci, sì, il danno che fa un po' di alcol assieme al virus non è semplicemente la somma del danno da alcol e del danno da virus, ma un effetto di automoltiplicazione reciproca. Per cui è chiaro che mezzo bicchiere di vino di per sé non è un problema per nessuno, ma per un soggetto che è HBsAg positivo, cioè all'epatite B, il consiglio più saggio è non berlo assolutamente. Non berlo assolutamente. Per quello che riguarda la protezione del vaccino, è sostanzialmente per la vita. Dopo molti anni, secondo alcuni, può essere ragionevole andare a vedere qual è il livello degli anticorpi. Se è ancora alto come livello, non c'è bisogno di fare nulla. Se fosse molto basso o indosabile, in genere una dose supplementare di vaccino garantisce in assoluto il resto della vita, ma la teoria più accreditata è che comunque la protezione, una volta che si sia raggiunta, sia per sempre. Abbiamo Carla che ci chiama da Bologna. Buongiorno Carla. Buongiorno a lei. Le volevo chiedere questo. Sì. Io ho 28 anni che ho l'epatite C. Sì. Sono 15 anni che mi curo con interferone e da quando esiste la ribavirina con la ribavirina. Sì. Non ho ancora avuto nessun risultato, quindi penso che non mi curerò più, perché è una terapia devastante. Ci sono nuove terapie? Grazie Carla. Dottor Fagioli, come sempre, la stanchezza e la, la stanchezza è la delusione di Carla, che dice non mi curerò più. Sono cure pesanti? Sì, certamente sono cure pesanti. Giusto per dare così un'idea di cosa vuol dire fare l'interferone, ma la signora lo sa sicuramente benissimo, è come avere l'influenza costantemente. La spiegazione è data dal fatto che quando noi abbiamo l'influenza, prendiamo l'influenza, la gran parte dei sintomi sono dati dall'interferone che il nostro corpo produce per combattere il virus. Nel caso del virus C, noi somministriamo dall'esterno l'interferone nell'idea che l'organismo non ne produca a sufficienza per eliminare il virus. Sì. E quindi non facciamo altro che, nel tentativo di eliminarlo, regalare un'influenza. Sul fatto dei farmaci nuovi, ci sono dei farmaci che sono in uscita, alcuni sono già in sperimentazione nel nostro paese, non sono ancora in commercio. Qualche speranza in più che nell'arco di un paio d'anni possano essere disponibili su larga scala, soprattutto per i pazienti che non hanno avuto successo nei trattamenti precedenti, credo che si possa pensare. Sì, anche perché Carla non può interrompere le sue terapie. Sì, c'è da dire che in genere vengono fatte a a cicli queste terapie, nel senso che si tratta di vedere se uno non risponde completamente oppure ha una risposta parziale e poi ritorna fuori il virus, ed è in genere una terapia che si fa a cicli di un anno. Difficilmente si resta in terapia per anni continuativamente, perché la qualità della vita diventa complicata poi. Allora, dottor Fagioli, io vorrei solamente una risposta rapida, perché abbiamo 30 secondi per chiudere, però per rispondere ad alcuni messaggi che riguardano la cirrosi. Quando un paziente con cirrosi è candidato al trapianto? Perché bisogna arrivare nel momento giusto, né troppo presto né troppo tardi. So che questa potrebbe essere l'argomento di una puntata, ma per rispondere c'è un segnale, un momento? Che cosa si può... Diciamo una cosa forse che è la più semplice ma la più saggia. Sì. Ci sono dei modelli per dare un punteggio al grado di malattia, sì, che sono o lo score di Child o il punteggio MELD, che il medico può direttamente calcolare al computer, che ci danno un numero che è molto lontano, se vogliamo, dalla pratica, però è un numero che quantomeno è eticamente riproducibile, e questo ci dice che quando c'è una classe di Child con un punteggio da 7 in su, o quando c'è un MELD superiore a 10, sì, è ragionevole contattare un centro trapianti e parlare di quel paziente. L'altro aspetto molto più diretto e molto più legato alla pratica è: qualunque evento di scompenso della malattia, che sia la prima volta che si sviluppa l'ascite o la prima volta che il paziente tende a diventare più giallo, qualunque di questi eventi deve essere un campanello d'allarme che fa comunque prendere contatto con un centro trapianti per stabilire come sarà l'iter da quel momento. Poi può essere un iter molto accelerato oppure o più rallentato. Dottor Fagioli, abbiamo sforato di un minuto, ma era un'indicazione importante. Grazie, ci sentiamo presto. Buona giornata a lei, e io invece vi aspetto domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Non mancate. Buona giornata.